Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Questi temi al centro della puntata di Economia Europa. Domina l'attenzione generale la crisi greca, fra voci e smentite che si rincorrono su una possibile ristrutturazione del debito. E poi le materie prime, sempre protagoniste del mercato, con la corsa soprattutto di quelle agricole e alimentari che incrementa il timore di disordini sociali nelle zone più povere del mondo. Parleremo anche delle vacanze di Pasqua per individuare quali saranno le capitali europee predilette dai viaggiatori italiani. Cominciamo con l'aggiornamento sul tema del debito sovrano. La situazione della Grecia è tornata ad acuirsi proprio nella settimana in cui l'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto l'outlook degli Stati Uniti, notizia che lunedì 18 aprile ha mandato a picco le borse. Sentiamo dalle parole di Moria Longo del Sole 24 Ore un'analisi delle cause e delle conseguenze della rottura di questo tabù. Non è cambiato nulla dal punto di vista della realtà concreta, è cambiato che Standard & Poor's per la prima volta ha messo in osservazione con outlook prospettive negative al rating degli Stati Uniti. Diciamo che si è rotto un tabù e il mercato si è trovato di fronte a questa rottura di questo tabù e ha iniziato a guardare in faccia la realtà. La situazione degli Stati Uniti è molto complessa. La forza degli Stati Uniti, che hanno un'economia molto flessibile e hanno un dollaro che è la valuta mondiale, per cui prima di scalfire questo primato bisognerebbe trovare qualcun altro che lo prende, per cui è quella la loro forza. Per il resto, dal punto di vista del bilancio pubblico, sono messi molto peggio dell'Europa. Se poi si vanno a vedere i singoli stati all'interno degli Stati Uniti, si trovano stati come la California che sono veramente alla canna del gas. Per cui la notizia di Standard & Poor's conferma questo scenario e lo mette in una luce nuova, diversa, cioè ha rotto un tabù. Per di più, secondo me, il problema degli Stati Uniti è lo stesso che c'è in Europa, cioè il problema politico. Negli Stati Uniti si è arrivati all'ultimo minuto per approvare la manovra per il budget. In Europa ci sono state le elezioni finlandesi, come dice adesso, ci sono state la Merkel, ha perso più elezioni regionali nell'ultimo anno. Proprio tutti i partiti che sono pro salvataggio in Europa e i partiti che invece cercano di mettere a posto, diciamo, i conti pubblici in America iniziano a perdere le elezioni. Quindi questo è il vero problema. Il problema è politico sia in America sia in Europa. Per cui è normale che i mercati, anzi secondo me, avrebbero dovuto ritracciare molto prima. Tornando all'Eurozona, è volato a nuovi massimi il rischio sul debito della Grecia. I credit default swap sul debito ellenico sono saliti ad un livello record, tale da implicare un 60% di possibilità di bancarotta nell'arco di 5 anni. I rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno sfondato la soglia del 14%, oltre il 20% il rendimento teorico dei titoli biennali. Un primo quadro generale della situazione sempre più critica del debito pubblico internazionale in Europa e oltreoceano. Lo ascoltiamo da Angelo Drusiani, responsabile investimenti di Banca Albertini SIS. La speculazione ha gioco facile in questa fase ad attaccare i debiti sovrani in Europa e adesso, dico finalmente tra virgolette, ma anche gli Stati Uniti sono nell'occhio del ciclone, perché anche gli Stati Uniti stanno attraversando una fase debitoria molto molto importante. Non dimentichiamo che poi gli Stati Uniti, oltre al debito pubblico, hanno debito privato abnorme, quindi sicuramente la situazione del debito pubblico internazionale è una costante negativa che sta crescendo via via, dovuta anche al salvataggio delle banche degli anni 2007, 2008 e 2009, e che crea dei grossi dubbi, dei grossi problemi sulla crescita dell'economia mondiale in generale. Dunque tutti i riflettori ora sono puntati sulla situazione greca, che molti accostano a quella argentina di 10 anni fa. E proprio a proposito di questo paragone sentiamo ora il commento di Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore. Ma io direi che dobbiamo, secondo me, ricondurre le cose dentro le loro proporzioni. La Grecia al momento non sta pagando il 18% su dei bond perché non sta emettendo nessun bond e non andrà sul mercato per almeno altri 2 anni perché ha i soldi che gli vengono dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario. Quindi la situazione è un po' diversa da quella argentina. L'Argentina pagava effettivamente questi rendimenti per titoli che doveva emettere per finanziare i propri disavanzi. La Grecia in questo momento è fuori dal mercato, quindi non sta emettendo bond, questo è il rendimento dei titoli che già sono sul mercato e che vengono scambiati sul mercato secondario. Ora, che però chiaramente la situazione della Grecia sia molto seria, è molto seria perché è chiaro che, come dimostrano queste dichiarazioni che continuano a venire un giorno sì, un giorno no, dalla Germania, questa solidarietà europea è un po' così a stantuffo, no? Certi giorni c'è, certi giorni sembra sembra non esserci. Certi giorni si dice sosterremo la Grecia in qualsiasi modo e certi giorni si dice ma forse ci sarà bisogno di una ristrutturazione. Diciamo che la solidarietà europea è ispirata solo dall'interesse dei paesi della Germania. Che vi partecipano, quindi in questo caso in particolare della Germania, che è il più grosso pagatore di questi pacchetti di sostegno, ma anche di tanti altri paesi del nord Europa, compresa la Finlandia che va a votare domenica e dove c'è un forte sentimento nell'opinione pubblica contrario a questi salvataggi. Perché dico dell'interesse proprio? Perché naturalmente la Germania fa queste operazioni non a scopo di beneficenza, ma perché si presume che un fatatrack in Grecia possa avere delle ripercussioni sull'intera area dell'euro e in particolare sulla situazione delle banche tedesche. Quindi sì, lo ha detto, la parola detto anche solidarietà non nel senso diciamo caritativo del termine, sì, ma più nel senso diciamo di operazioni che vengono fatte congiuntamente da ciascuno, diciamo, nel cercando di ottenere o di conseguire un proprio interesse che può essere diverso da paese a paese. Nel caso della Germania in particolare è la protezione della situazione delle banche tedesche, che sono molto esposte. Sì, Alessandro, ricordavamo infatti l'intervista su Sole 24 di Lorenzo Benismaghi, uno dei membri della Banca Centrale Europea, che ha definito devastanti gli effetti che potrebbero prodursi da un fallimento della Grecia. I prezzi delle materie prime continuano la loro inarrestabile ascesa. L'oro ha superato i 1.500 dollari l'oncia, l'argento è ai massimi da oltre 30 anni. Ma a generare preoccupazione sono soprattutto i prezzi delle materie prime alimentari, perché sono il maggior rischio per i poveri nel mondo, aumentando il numero di coloro che vivono in estrema povertà. Lo ha detto il presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellick, sottolineando che un ulteriore aumento del 10% dei prezzi degli alimentari farebbe aumentare il numero dei poveri di altri 10 milioni di persone, a fronte di 34 milioni di poveri in più se i prezzi salissero del 30%. Il commento di Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti, che è la principale organizzazione rappresentativa del settore agricolo italiano. Diciamo che in questi ultimi giorni la borsa di Chicago comunque ha fatto segnare delle flessioni, quindi un trend di questi ultimi due o tre giorni è quantomeno in riduzione di queste quotazioni, soprattutto dei cereali, quindi di quelli che sono le granaglie. È chiaro che qui c'è una componente che si viene a costituire con diversi aspetti. Un aspetto sicuramente può essere quello che si è discusso tante volte, di quanto può essere l'influsso delle speculazioni finanziarie. Un altro aspetto può essere, ed è una cosa che come Coldiretti abbiamo rimarcato anche nei giorni scorsi, il fatto che ad esempio la Cina per la prima volta negli ultimi 7 anni, nel primo trimestre del 2011, ha fatto segnare un deficit dal punto di vista degli scambi per quello che riguarda il mais, proprio perché c'è una forte crescita di quelli che sono i consumi di carne. Quindi è chiaro che anche paesi in via di sviluppo che stanno modificando il loro atteggiamento rispetto all'alimentazione possono far sì che si creino queste tensioni poi sui mercati delle granaglie. Non ultimo anche il discorso dell'erosione di quello che è il terreno. Facciamo un esempio: in Italia negli ultimi 40 anni è calata la superficie coltivata di circa il 27%, l'uso del bioetanolo, altre destinazioni. È chiaro che tutto questo può comporre quel puzzle che ci porta poi alla fine ad avere questo risultato. Dottor Bazzana, questo può comporre, però noi stiamo assistendo a record nell'ultimo anno, cioè non stiamo parlando di una tendenza degli ultimi decenni. Io vorrei capire, a nostro avviso c'è anche una componente di forte liquidità che, non potendo essere investita o non volendo essere investita in bot, perché non rendono nella borsa, perché è a rischio, si è scaricata sul mercato dei futures, sulle commodities e quindi dei prezzi speculativi sulle materie anche alimentari. Però da quello che voi vedete, si sta placando, lasciamo stare a Chicago, ci sono elementi, oppure voi vi state rassegnando come Coldiretti? È un po' come avviene nel mondo del petrolio, a viaggiare sempre su prezzi stabilmente sopra gli 80 dollari al barile nel caso del petrolio, e per voi sempre prezzi da record. Ma a noi non sembra che l'andamento di questi ultimi anni sia tale da giustificare questo tipo di fotografia. Bene. Nel senso che abbiamo avuto 2 anni fa dei picchi che hanno raggiunto anche livelli più alti di quelli attuali, poi c'è stata una fortissima discesa, adesso si sono rialzati. Io credo che la fotografia sia quella di un mercato instabile, di un mercato in cui gli operatori per un motivo o per l'altro fanno fatica a programmare o a ricercare contratti che possano poi soddisfare quelle che sono le esigenze dei trasformatori.